prima è una bugia. Hai preso almeno gli stivali buoni. Guarda che fuori grandina di rotto. Non vedi se ti guardo delusione e abbassi il viso sopra il petto.